Il punto di Stefano Folli. Tanto rumore per nulla, si potrebbe dire. Che la mafia tenti di ricattare le istituzioni non è certo una notizia, lo sa bene ogni investigatore impegnato sul campo. Il motivo per cui 40 persone si sono spostate da Palermo al Quirinale per ascoltare la deposizione del Presidente della Repubblica riguardava un altro punto che adesso già si tende a dimenticare, e cioè se sia mai esistita una trattativa fra la mafia e lo Stato, che è cosa ben diversa da un tentativo di ricatto. Ora, la parola trattativa non è mai emersa nelle 3 ore dell'udienza. Ne deriva che nel corso del processo la pubblica accusa dovrà tirar fuori prove più convincenti di quelle emerse fin qui, più convincenti di uno show mediatico che come tale non è nemmeno andato in scena, visto che i giornalisti e telecamere non erano ammessi nei saloni del Quirinale. In altre parole, la giornata di ieri insegna che le istituzioni si rispettano e che la magistratura ha un duro ed essenziale compito da svolgere quando cerca la verità appunto, non le scorciatoie clamorose.